E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo anche noi della vicenda più che altro giudiziaria che ha coinvolto il gruppo Finmeccanica, ma anche di due buone notizie confermate in questi giorni che riguardano una controllata del gruppo Finmeccanica Ansaldo STS e il terzo gruppo di costruzione in Italia, il gruppo che è nato dalla fusione Todini-Salini. Perché? Perché ogni tanto ci sono anche buone notizie per le nostre imprese. Hanno vinto una commessa molto importante, quasi 3 miliardi di euro di valore, per costruire la nuova metropolitana danese, tutta italiana, dai vagoni ai tunnel, ai binari, alla segnaletica. Di questo parleremo in apertura, anche per capire come si faccia a vincere le gare internazionali quando i concorrenti poi sono i grandi gruppi francesi o tedeschi, e se ormai per le imprese italiane, medie, grandi o piccole che siano, diciamo, le opportunità più interessanti arrivano tutte dall'estero, dagli appalti esteri. E, ripeto, una commessa molto importante, anche perché è stata tutta e interamente vinta da varie aziende italiane, erano diverse gare. Di questo parleremo in apertura. La borsa negativa a Milano oggi, come le altre borse europee, non niente di drammatico, ma meno 0,7% Milano, meno 0,90% Parigi, meno 0,40% Francoforte. L'America oggi opera a metà, comunque perde lo 0,70%, Londra meno 0,60%, l'euro in calo a 1,3230, ripeto, è sempre un euro forte a 1,32, è più debole di una settimana fa quando viaggiava, o anche due settimane fa quando viaggiava a 1,39-1,40, per carità, ma dire che l'euro è debole è una castroneria. Chi va bene, non a caso, Ansaldo STS più 3% in borsa dopo l'annuncio non solo della commessa danese, 700 milioni di valore, due giorni fa ha vinto un'altra commessa in Australia, 350 milioni di euro di valore, ma oggi anche l'annuncio di che sempre Ansaldo STS ha vinto una gara in Russia per 1,5 miliardi per anche in questo caso fornire segnaletica, sistemi di controllo e gestione del traffico ferroviario, in questo caso per quello che riguarda 50 stazioni ferroviarie in Russia. Parleremo anche dei fondi del Sud, del Consiglio dei Ministri di oggi, lo faremo più avanti, varie dichiarazioni sugli stanziamenti, ancora si cerca di capire poi quando saranno disponibili questi soldi, e poi nella seconda ora del programma, come promesso, del 5 per 1000, di cosa sta capitando dopo le dichiarazioni del Ministro Tremonti. Molta polemica sull'utilizzo del 5 per 1000, sapete che dei 400 milioni, un po' di più, 500 milioni, tra i 4 e 500 milioni raccolti, solo 100 andranno veramente alle organizzazioni per cui noi abbiamo versato questi soldi nella dichiarazione dei redditi, e quindi le ONLUS in generale. Su questo, o meglio sul settore, diciamo, del no profit o dell'aiuto, avremo anche un approfondimento che riguarda l'India, perché è notizia diffusa oggi da Radio Cori sulle 24 ore, in India le principali banche indiane stanno attraversando grossissimi problemi nella gestione del microcredito. Alcuni di voi lo ricorderanno, è quello che ha permesso di vincere il premio Nobel a Yunus, il premio Nobel, è quella, la Grameen Bank, ne abbiamo parlato molte volte, cioè quelle forme di microprestiti per comprarsi la zappa, il badile, il trattore, dati ai contadini indiani che venivano restituiti. Un meccanismo che sembrava funzionare benissimo, adesso qualcosa si è inceppato, tant'è che le banche indiane sembrano essere invischiate in questa gestione. Yunus, tra l'altro, vinse il Nobel per la pace su questo nel 2006. Questi temi principali, 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le notizie in breve. volete sapere anche chi va male in borsa? Fiat, e anche di Fiat parleremo tra un attimo. Andiamo con i mercati invece. Petrolio $82. Oggi in America è il cosiddetto Black Friday, ossia il giorno più in cui c'è maggior traffico in tutto l'anno per lo shopping. Ieri era Thanksgiving, il giorno del ringraziamento dei coloni americani per gli indiani che li salvarono quando sbarcarono in America dandogli dei tacchini. Ecco perché durante il giorno del ringraziamento, che è il ringraziamento verso gli indiani che salvarono i primi coloni, si mangia il tacchino. Chiudiamo l'inciso culinario, andiamo avanti. Il giorno più trafficato dell'anno perché appunto c'è la festività, c'era ieri del Thanksgiving, gli americani in giro per fare shopping e si guarda molto a questo Black Friday, non tanto per il traffico ma per capire come andranno le vendite. Si vorrebbe evitare che si ripeta quello che è successo nel 2008, quando il traffico stradale e l'affluenza nei negozi fu altissima, ma le vendite basse e bassine. Infatti le varie catene americane stanno correndo ai ripari, inviano sconti anche a casa, tagliando ed utilizzando i punti vendita, offerte scontatissime di qualunque forma. Passiamo all'Europa. Era immaginabile, adesso abbiamo anche la conferma, il voto sul debito della Anglo-Irish Bank, la banca che noi abbiamo definito un pozzo senza fine, la banca che è di fatto fallita. Comunque oggi Standard & Poor's ha detto che il voto sul debito della banca irlandese è junk, è spazzatura. E non a caso poi i premi al rendimento irlandese sulle obbligazioni irlandesi a 10 anni hanno segnato un nuovo record. Adesso la differenza con quanto rende la stessa obbligazione tedesca è al 6,53%. E tra l'altro questo, c'è anche un elemento politico: dopo che il voto per il seggio di Donegal è sembrato decretare la sconfitta del partito al governo. Comunque volano anche i rendimenti di Spagna, nuovo record al 2,56% di differenza con le obbligazioni tedesche, la Grecia è al 9,36%, il Portogallo al 4,5%, l'Italia all'1,7%. E anche i premi che si pagano per assicurarsi sul rischio che falliscano Spagna, Irlanda e Portogallo sono al massimo. I CDS infatti hanno toccato i 320 punti per la Spagna, 600 punti per l'Irlanda, 500 punti per il Portogallo. Zapatero però, il leader spagnolo, ha escluso ogni possibilità di salvataggio. Il Portogallo dice: non c'è mai stata una pressione da parte dell'Unione Europea e del Fondo Monetario per indurre Lisbona a chiedere un aiuto e un finanziamento. Il Parlamento portoghese nel frattempo ha approvato la finanziaria anti-deficit 2011, quella presentata dal premier socialista José Sócrates. Il piano per il Sud, ripeto, ne parliamo più avanti. Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al piano nazionale per il Sud, due decreti. Il primo indicherà i criteri per selezionare le opere infrastrutturali da realizzarsi nel Mezzogiorno, e quindi l'asse ferroviario Napoli-Bari-Taranto, e poi il Salerno-Reggio Calabria, e poi il Catania-Palermo, e poi di nuovo il ponte sullo Stretto. Il secondo decreto invece attribuisce al governo i poteri di coordinamento centrale per l'utilizzo dei fondi e anche il riordino del sistema degli incentivi alle imprese per evitare meccanismi a pioggia. E poi la banca per il Sud. Torino, Fiat, diciamo male in borsa, male anche Exxon, meno 2%. Questa mattina a Torino l'incontro tra Fiat e sindacati sul futuro dello stabilimento di Mirafiori. A sorpresa, perché non era certa la sua presenza, è arrivato anche il numero uno del gruppo, Sergio Marchionne. Presenti tutti i sindacati. Marchionne ha detto a Mirafiori: faremo il SUV della Jeep e la berlina. Il SUV verrà prodotto con marchio Alfa e Alfa Jeep, e anche la berlina per quello che riguarda il marchio Alfa. 280.000 auto l'anno, questo è l'obiettivo. A Mirafiori quindi resteranno le vetture di punta di Jeep ed Alfa. Il futuro di Mirafiori sarà una joint venture tra Chrysler e Fiat, come già si capisce dai modelli. E a Mirafiori, ha detto sempre Marchionne, può crescere l'occupazione. E poi ha detto Marchionne: l'appello che vorrei fare a tutti voi, ai sindacati, è quello di tenere la politica fuori dalla porta, gli estremismi lontani dalla fabbrica e lasciare le prove di forza ai deboli. Positivo il giudizio della FIOM per quello che riguarda diciamo, una trattativa senza pregiudiziali, ma la FIOM ha respinto l'ipotesi di una Pomigliano ritinteggiata. Sentiamo Giorgio Airaudo, responsabile auto della FIOM nazionale, al microfono il nostro Paolo Piacenza. Ma di Marchion ne trovo interessante l'apertura. Quello diciamo che i suoi uomini sono come minimo in questo momento due passi indietro, visto che ci hanno riproposto il modello di Pomigliano. Perché è evidente che se l'apertura è Pomigliano ritinteggiata non va bene per noi, perché pensiamo non vada bene per i lavoratori, per le loro condizioni. Se però si vuol fare una trattativa vera, dove come si dice sono assumibili da parte dell'impresa anche proposte sindacali, è assumibile anche dall'impresa l'opinione dei lavoratori, noi pensiamo si possa negoziare. Noi non abbiamo mai abbandonato nessun tavolo, al massimo ci buttano fuori. Soddisfazione per il piano presentato, definito dalle forti prospettive, invece da Claudio Chiarle, segretario provinciale della FIM. Sempre al microfono il nostro Paolo Piacenza. Beh, credo che il piano industriale che ci è presentato sia un piano eccezionale che dia delle forti prospettive. È sicuramente a consolidare, ma diciamo che questo ha definito il futuro di Mirafiori. Mentre sulla parte sindacale ritengo che ci siano degli aspetti fortemente innovativi a partire dalla questione degli orari e alcuni elementi che invece confermano, diciamo, la tradizione dell'accordo di Pomigliano. Però, se si può dire, sicuramente le specificità di Mirafiori possono emergere. Ora si tratta di fare il confronto sindacale. Passiamo adesso alla vicenda Finmeccanica, alle vicende che riguardano un gruppo, perché da un lato c'è quella giudiziaria, dall'altro c'è quella invece più economica e che riguarda Ansaldo STS. Cosa è successo? Ve l'hanno già detto i nostri GR, indagati il presidente dell'ENAV, che è l'ente per il controllo del traffico aereo, e Luigi Martini, la D dell'ente Guido Pugliesi e la responsabile della controllata di Finmeccanica Selex Sistemi Integrati Marina Grossi, che è anche la moglie del presidente di Finmeccanica Pier Francesco Guarguaglini, ritengono i PM coordinati dall'aggiunto Giancarlo Capaldo che nell'ambito di una serie di appalti affidati dall'ENAV siano state messe in atto delle sovraffatturazioni tese alla creazione di fondi neri. L'ENAV ha detto massima collaborazione alla magistratura, Finmeccanica, e su Finmeccanica invece il Presidente del Consiglio, che poi sentiremo sul piano per il Sud, ha detto è un suicidio colpire un'azienda che contribuisce alla forza del paese, le indagini non porteranno a nulla. Sono preoccupato perché Finmeccanica è un asset straordinario, in questi giorni ha firmato un contratto per 1,5 miliardi con la Russia per forniture nella Federazione Russa. Mi auguro che queste indagini portino a nulla, come sono convinto sia, e comunque considero veramente suicida che il Paese proceda contro chi costituisce con la propria capacità operativa la forza del Paese. Così Presidente del Consiglio. Ora è indubbio che Finmeccanica, spesso ne abbiamo parlato, è uno dei migliori gruppi di questo paese, partecipata dal Tesoro, con Eni, Enel, sono aziende importanti, gruppi importanti che, come adesso sentiremo, hanno anche contratti con le varie controllate importanti all'estero. Dopodiché vedo che mi chiedete come fa Berlusconi a sapere che le indagini non porteranno a nulla. In effetti non lo può sapere. Dopodiché un'azienda, come anche qualunque altro soggetto, può essere indagata dalla magistratura se vi sono gli elementi, che sia importante o meno per il paese. Questo sono. Non è che siccome uno è importante per il paese non può più essere indagato. Va bene, parliamo di cose positive, perché dicevo, al di là della vicenda Finmeccanica, la buona notizia con cui apriamo questo primo approfondimento arriva dalla Danimarca e vale parecchi, parecchi soldi. E come dicevamo, una buona notizia per le imprese italiane sempre più legate ai mercati esteri, e ripeto, delle vicende del gruppo Finmeccanica già abbiamo parlato, riguarda una controllata del gruppo Finmeccanica Ansaldo STS, ma anche un importante gruppo di costruzione italiano, il gruppo Salini Todini. Salini Todini, la fusione di due gruppi esistenti, è il terzo gruppo italiano nel settore delle infrastrutture. 1 miliardo e 200 milioni di euro di giro d'affari, commesse per quasi 9 miliardi di euro in diversi paesi, e a 13.000 dipendenti opera, per la precisione, in 40 paesi. Ansaldo STS, da non confondersi con altre Ansaldo, è società di gruppo Finmeccanica, produce i sistemi, già alcune volte ce ne siamo occupati, ad alta tecnologia per il trasporto ferroviario e metropolitano, il segnalamento, per essere forse più precisi in gergo, è quotata in borsa, capitalizza 1 miliardo e 100 milioni, giro d'affari di circa 1 miliardo e 200 milioni l'anno, 4.200 dipendenti in 28 paesi dove opera. Dicevo, una buona notizia, perché come già abbiamo anticipato nei giorni scorsi, sia Salini che Ansaldo hanno vinto il contratto per il City Ring, ossia la nuova metropolitana di Copenaghen. Serve a ampliare la metropolitana esistente, aggiungeranno 16 km di metropolitana, 17 nuove stazioni di fermata entro il 2018, e la cosa impressionante è che questa metropolitana funzionerà 24 ore su 24, la linea sarà infatti completamente automatizzata. Pensate che gli intervalli tra i vari convogli saranno di appena 100 secondi, il che significa poi garantire la mobilità di 130 milioni di passeggeri all'anno. E allora, dicevamo che Salini sarà la guida del consorzio, dove dentro ci sono anche Mer, Tecnimonte e Seli. Valore complessivo delle commesse 2 miliardi di euro per la parte costruzioni, valore complessivo del contratto per Ansaldo STS 700 milioni di euro. Siamo in collegamento da un lato con l'ingegnere Sergio De Luca, che è amministratore delegato di Ansaldo STS. Ingegnere, buonasera. Buonasera a lei. E dall'altro con il dottor Pietro Salini, amministratore delegato della Salini Costruttori. Buonasera anche a lei, dottor Salini. Buonasera a voi. Allora, vediamo di capire innanzitutto che cosa e come mai, secondo voi, la corte italiana ha avuto un tale successo. C'è però un però, ossia l'approvazione finale arriverà dai proprietari della società per la metro entro Natale. Dottor Salini, voi su questo siete tranquilli? Dovrebbe essere un passaggio, tra virgolette, formale? Ma noi ci aspettiamo che sia così, diciamo. Oggi abbiamo presentato tutte quelle che sono le risposte a tutte quelle che sono le domande del nostro cliente, quindi ci aspettiamo, insomma, che sia il piano finanziario che l'offerta tecnica, avendo superato questa fase, siano poi approvate giustamente dall'owner, come si dice, cioè dal proprietario del servizio. Per quello che riguarda la vostra parte, cioè la costruzione vera e propria, secondo quello che lei ha visto, che cosa vi ha permesso di vincere la gara, visto che c'erano chiaramente altri soggetti in gara? Noi fronteggiavamo una fortissima concorrenza europea tra i principali gruppi di costruzione del mondo, e quindi naturalmente abbiamo avuto, diciamo, una sfida importante da portare avanti come italiani. Che cosa abbiamo portato? Abbiamo portato una competenza importante del gruppo nostra, ma anche dei nostri partner, a disposizione del cliente, e poi abbiamo avuto per esempio una grande chance di poter far vedere a questo cliente, che vive in una città e che conosce i problemi del traffico, e gli abbiamo fatto vedere per esempio la realizzazione in corso a Roma, che è una città che ha altrettanto problemi di traffico, che sono ben noti a tutti, ma che ha anche, diciamo, un tessuto urbanistico e edilizio complesso e da rispettare, quindi una storia, un'archeologia, una vivibilità, una difficoltà di poter fare una città, una metropolitana in città, significa sostanzialmente poi impattare con la vita quotidiana di centinaia di migliaia di persone, perché, ecco, una infrastruttura di questo tipo, quando si costruisce, è sostanzialmente un fastidio per la popolazione, non è certo un servizio, e quando effettivamente viene poi resa diventa un servizio, ma nel momento è una fase di costruzione che dura svariati anni, perché sono grandissime infrastrutture con tante tematiche, tante complicazioni, ecco, c'è stata una fase di fastidio. Ecco, in questo siamo riusciti a dimostrare che abbiamo cercato di mettere in piedi una tecnica, una sapienza, una capacità che consente di ridurre al minimo questi svantaggi per la popolazione residente, ancorché una parte insopprimibile, che va dal rumore al rispetto di diciamo, dell'inquinamento delle polveri, alla sicurezza del lavoro, alla minimizzazione di quelli che sono gli impatti anche sulle deviazioni, sul traffico. Quindi lei dice, insomma, li abbiamo convinti anche perché abbiamo proposto delle soluzioni per avere il minor impatto possibile su quella che è la vita quotidiana degli abitanti di Copenaghen. Ecco, voi cosa costruirete esattamente di questa metropolitana nuova? Come dice? Quali infrastrutture farete per questa metropolitana? Quali infrastrutture? Facciamo due tunnel e quindi facciamo, diciamo, tutte le stazioni, quindi questo è il anche l'impiantistica, tutto. Ecco. Si riferiva a questo? Sì, sì, sì, volevo sapere che cosa concretamente avreste costruito poi in questa commessa a Copenaghen. Dottor De Luca, per quello che riguarda Ansaldo STS, voi avete vinto invece la gara, che era una gara separata, se ho ben capito, per il segnalamento, cioè per tutto quello che permette poi ai treni di andare, di non, io dico con una battuta, di non scontrarsi, ma insomma, il segnalamento è quello che permette il controllo, poi con i tabelloni di controllo del traffico ferroviario, vista anche le attese di questa metropolitana, appunto convogli con intervalli minimi di appena 100 secondi. Se ci racconta che cosa fornirete, o magari se mi corregge, perché forse non era una gara separata, ma una gara unica, prego. No, sono due gare separate che in linea di principio avremmo potuto vincere noi per la parte tecnologica, un altro consorzio per le opere civili o viceversa l'avrebbe potuto vincere il dottor Salini e i suoi partner per le opere civili e un altro nostro competitor per le opere tecnologiche. Quindi a maggior ragione due vittorie italiane, notifichiamo sempre Italia, su due gare distinte, importante. Su questo. Due gare distinte, per quanto, come dire, credo che abbia anche avuto un qualche ruolo il fatto che forse una cordata di due imprese italiane, ancorché separate, ma che comunque durante lo svolgimento dei lavori si devono integrare, devono collaborare, possibilmente non litigare, perché i lavori dell'uno interferiranno con quelli dell'altro, può avere avuto anche questo la sua importanza nel dare a un ticket tutto, tutto italiano, il che, come dire, ci farebbe piacere, perché al di là del valore delle due imprese, Salini e i suoi partner da un lato, Ansaldo STS dall'altro, forse un plus l'aggiunto, quello di muoversi in maniera coordinata come Italia. Una volta tanto il sistema Italia si muove come sistema. Cosa fornirete alla linea di metropolitana, dottor Ingegner De Luca? Noi forniremo tutte le tecnologie elettromeccaniche, a cominciare dai treni che Ansaldo STS non costruisce, certo. Però che abbiamo presentato i prodotti della nostra consociata Ansaldo Breda, sì. Forniremo gli impianti di segnalamento che, come lei ha ricordato, sono i sistemi che consentono la marcia dei treni in sicurezza, quindi banalmente che i treni non si scontrino, non si tamponino e così via, e tutte le altre tecnologie elettromeccaniche, i sistemi di alimentazione, cioè dare energia ai treni, i sistemi di supervisione e controllo e tutte le altre tecnologie ausiliarie di natura elettrica. Inoltre nel nostro contratto è previsto anche l'operation e maintenance del sistema per 5 anni, quindi noi il nostro contratto, che vale all'incirca 700 milioni, prevede la costruzione dell'opera e poi la gestione della stessa. Questo nella scia già di una precedente realizzazione che abbiamo fatto a Copenaghen, il ring che lei ha citato è la seconda linea metropolitana, sì. Ce n'è già un'altra che è entrata in servizio nel 2002, ancora con nostre tecnologie e per la quale abbiamo già fornito 8 anni di operation and maintenance, quindi anticipando la sua domanda, che mi immagino non avrebbe fatto in parallelo a quella che ha fatto il dottor Salini, quali sono i motivi della vostra vittoria? Beh, non dimentichiamoci sempre che c'è un elemento economico che va considerato, quindi e poi sicuramente il prezzo da noi offerto è un elemento importante. E anche il fatto che aveste già un'esperienza col primo anello. Nel nostro caso specifico è che abbiamo fornito un sistema analogo 8 anni fa e per 8 anni gliel'abbiamo tenuto in esercizio perfettamente. c'è un parametro dell'operation and maintenance che avrebbe potuto darci delle penalizzazioni oppure dei premi. In questi 8 anni abbiamo preso costantemente dei premi, ed è quello della disponibilità dei treni, o meglio del sistema completo a fornire il servizio al cliente. Sì, perché nei paesi scandinavi sono molto severi sulla manutenzione, a differenza di quanto purtroppo non avviene da noi ogni tanto. Su questo invece vedo molte domande al 349-238-6666. Stavamo chiedendo, ingegnere De Luca, se ormai voi per vivere, per lavorare, dovete aggrapparvi all'estero. Questa settimana, oltre ai 700 milioni di gara vinta per la segnaletica e i vagoni ai danesi, avete vinto una gara per un'enorme miniera australiana, Rio Tinto, 340 milioni di euro, fornirete tutta il segnalamento, la comunicazione e il controllo dei treni che viaggiano in questa miniera. E poi oggi l'annuncio con le Ferrovie Russe, 1,5 miliardi di valore, Ansaldo STS, Selex, sistemi integrati, communication, ELSAG, data mate, telespazio, fornirete tutte aziende del gruppo Finmeccanica, tecnologie per 100 stazioni, 100 veicoli e 50 linee ferroviarie. Solo con l'estero si lavora? Beh no, insomma, certamente il mercato italiano per noi, Ansaldo STS, continuerà ad essere un mercato importante, sia in termini quantitativi, sia anche e soprattutto in termini qualitativi. È un momento nel quale stiamo facendo i piani strategici, li andremo ad annunciare a Londra la prossima settimana, e nelle nostre strategie future l'Italia continuerà ad avere un peso di circa il 20% nel nostro volume di attività. Come lei ricordava all'inizio, siamo un gruppo internazionale operante in 28 paesi con 4.300 persone, di queste 1.500 le abbiamo in Italia e 2.800 all'estero. Il mercato è un mercato mondiale, nel senso che è un mercato globale, le tecnologie tendono a standardizzarsi, ma anche i clienti tendono ad avere requisiti equivalenti, e quindi si compete su scala globale con la competizione globale. Dopodiché questo comporta che l'Italia inevitabilmente ha un ruolo minore nelle, certo, nostre strategie, però l'Italia continua a essere il punto dove mettiamo appunto, in collaborazione con i nostri principali clienti, poi le tecnologie che andiamo ad esportare. No, no, ma certo, il know-how e anche la produzione la fate in Italia, però le commesse arrivano anche e soprattutto dall'estero. Vorrei che mi rispondesse, per concludere, la stessa domanda anche il dottor Salini, cioè in un paese con i problemi di spesa pubblica che conosciamo, con il bisogno di mantenere i conti sotto controllo, opere pubbliche lamentano i costruttori bloccate e i consumi che non è che proprio decollino, anche voi ormai, come molte altre medie o medio grandi imprese italiane, siete tutti aggrappati all'estero? Diciamo, per noi il mercato internazionale ha sempre rappresentato un peso molto importante, intorno all'85%, penso che del nostro fatturato, quindi sostanzialmente il mercato Italia è sempre stato un mercato che ha una dimensione, sì, ma insomma un mercato, una componente del mercato. E certo questo è un elemento di grande debolezza del nostro agire in giro per il mondo, perché i nostri competitor internazionali hanno invece nel loro paese domestico, certo, inteso come tale, una base e una dimensione molto importante. I nostri sfidanti sulla metropolitana di Copenaghen, sul loro turnover, hanno forse il 15-20% di internazionale rispetto a un 80% domestico. Ecco, no, questo è un passaggio importante, dottor Salini, perché insomma i vostri concorrenti intanto fanno molto di più in casa e la quota export pesa di meno, e poi, quello che si è ben capito, portano anche dei progetti fatti in casa, cioè quando tu lavori in casa riesci anche ad avere dei progetti magari su scala anche più grosso, comunque che puoi portare come esempio di quello che sei riuscito a fare. Agli italiani tocca farlo, ma sempre o spesso su progetti realizzati all'estero, per cui poi riprendendo quello che stavamo dicendo prima, l'importanza di aver potuto dimostrare al cliente internazionale e farlo venire a visitare un cantiere in corso nel nostro paese, secondo me ha giocato un ruolo importante. È chiaro che noi per esempio adesso veniamo da una aggiudicazione provvisoria di un'altra metro a Roma, questa settimana Casal Monastero, Re Bibbia, e sostanzialmente è chiaro che questo tipo di attività, quando si possono portare i clienti di altri paesi a far vedere fisicamente certo. Le sappiamo fare, ma non solo le sapevamo fare o le abbiamo fatte nel passato, ma le stiamo fisicamente facendo, cioè fa la differenza. Certo, devo chiudere, anche se resterei a lungo a parlare con voi, perché mi piace quando le aziende italiane vincono le gare, piccole e medie, che siano incordate in rete all'estero. Grazie però in bocca al lupo all'ingegnere Sergio De Luca, amministratore delegato di Ansaldo STS, al dottor Pietro Salini, amministratore delegato della Salini Costruttori. Vedo molti commenti alle parole del Presidente del Consiglio su Finmeccanica dopo l'iscrizione del registro di indagati della moglie di Guarguaglini, ma non in quanto moglie chiaramente, ma per il ruolo che ricopre, la responsabile della Selex Sistemi Integrati. Berlusconi cosa ha detto? L'abbiamo sentito, ha detto è un suicidio colpire Finmeccanica, è un asset straordinario. Mi auguro che queste indagini portino a nulla, come sono convinto è suicida procedere contro chi costituisce una forza per il paese. Allora è chiaro che è una, dal punto di vista economico, una castroneria, e anche se lo dice il Presidente del Consiglio sempre resta, cioè la magistratura non è che può andare a vedere se l'azienda è grossa oppure se è piccola. Cosa facciamo? Mettiamo sotto inchiesta nel caso solo i piccoli imprenditori e i grandi gruppi non possono essere toccati dalla magistratura? Poi che anche noi ci auguriamo che le inchieste portino a nulla, ma dirsi convinto che portino a nulla è un po' forte per un Presidente del Consiglio su un'inchiesta della magistratura per sovraffatturazione e fondi neri. E dopodiché, allora, i tempi di Tangentopoli, Eni, Fiat, nessuno doveva essere messo sotto inchiesta perché erano grandi gruppi per il paese. È chiaro che politicamente uno può dire quello che vuole, da un punto di vista economico e anche giuridico non stare in cielo e in terra, i mercati, va là. Meno 0,50% Milano, meno 0,80 Parigi, meno 0,50 Francoforte, meno 0,50 anche Londra. L'America, che oggi chiuderà prima, chiude alle 19 ora italiana, meno 0,80%, euro quota 1,32, bene, per via dei contratti che abbiamo appena commentato, sia Ansaldo STS più 3,30 che Finmeccanica più 2%, bene anche Steamicroelectronics più 2,2, Pirelli più 1,40, Banco Popolare più 2%, Campari più 1,3%, Spritz Time, lo sapevo che arrivava la battuta, Fiat meno 2,2, Azimut meno 1,80, Exor meno 1,80, Luxottica meno 1,60 come l'automatica, Generali meno 1,5 come Unipol, CIR meno 1,30 come Fondiaria, che continua a calare, Italcementi meno 1,20, Buzzi Unice meno 1,1 come Enel, Unicredito perde lo 0,90 come Mediobanca, San Paolo Intesa San Paolo meno 0,60%. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Oh, sei allegra oggi? Ma abbastanza, venerdì. Allora, dunque, abbastanza venerdì, ecco. Anche i mercati meno di te. Fiat meno 2,2 di Ansaldo, abbiamo già detto tutto, anche Finmeccanica, Fiat meno 2,2, Exor meno 1,80. Sì, allora, in realtà gli operatori spiegano che non ci sono motivi fondamentali per cui i due titoli siano scesi oggi. In realtà è un mercato in cui domina la speculazione, le azioni si trovano oggi in una fase di correzione dopo aver guadagnato bene il 15% dei primi di novembre a martedì scorso, nonostante comunque i dati sulle immatricolazioni siano stati negativi, quindi le sale operative riferiscono che tutte le attese del mercato sono concentrate sull'operazione di spin-off, e ricordiamo che Sergio Marchionne, la di Dell'Ingotto, lunedì incontrerà gli analisti proprio per presentare l'operazione al mercato. Questo per quello che riguarda i due, perché anche Xor la segue. Per quello che riguarda invece Generali, che succede? Perché meno 1,5 oggi è l'Investor Day, no? Sì, allora diciamo che il titolo ha risentito della debolezza generale dei finanziari in Europa, visto i continui timori sulla situazione finanziaria dei paesi considerati più deboli della zona euro. Oggi c'è stato, per quanto riguarda Generali, oggi c'è stato l'Investor Day a Venezia, e dalla presentazione sono emersi alcuni dati sulla società. Quindi il gruppo ha un'esposizione limitata, 1,5 miliardi su strumenti di finanza strutturata, a 2 miliardi sui paesi PIGS, ovvero Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna, quindi quelli considerati più a rischio, e non ha esposizioni ai mutui ai subprime americani. E inoltre i manager hanno sottolineato che il gruppo è tranquillo sul rischio Italia e non è preoccupato per le condizioni finanziarie degli Italia e anche degli Stati Uniti. Allora, altri titoli. Beh, vedo molti commenti su Fondiaria Assai, Livia, non ho visto grosse novità se non le difficoltà che ha il gruppo Ligresti nel ricapitalizzare. Il gruppo AMA è entrato, ma insomma il mercato non è ancora convintissimo, è meno del 30% anche oggi. No, infatti il mercato sta continuando a penalizzare il titolo, ma è un periodo in cui a essere sotto pressione sono soprattutto le società che hanno quindi un debito elevato o comunque stanno ristrutturando il debito o il gruppo, sempre per le solite preoccupazioni sulla situazione finanziaria dei paesi più a rischio, quindi le azioni sono state penalizzate ancora oggi in attesa appunto di novità sull'aumento di capitale e quindi sul consorzio delle banche che sosterrà l'aumento di capitale sostanzialmente. Allora, ancora, vedo alcuni commenti, dicono Pistolotto contro Berlusconi. No, abbiamo solo detto, come abbiamo detto in altri casi, PD, PDL, non mi interessa, che sostenere che un'azienda, che indagare un'azienda come Finmeccanica è suicida perché è un grosso gruppo, non vuol dire nulla. Si indagano o non si indagano gruppi piccoli, grandi o medi, non è che sulla base delle dimensioni allora è suicidio e allora i piccoli li può indagare. Chiusa la parentesi, chi vuol capire capisce, sennò poi... Chi vuole buttarla in politica, la butto in politica. Noi ci occupiamo di economia, andiamo avanti con i temi. Pirelli. Sì, allora Pirelli oggi ha chiuso in territorio positivo, ha guadagnato quindi l'1,4%, ha beneficiato dell'annuncio dell'accordo siglato in Russia con due società per lo sviluppo di attività nel settore dei pneumatici. E il closing dell'accordo è previsto entro giugno 2011. Il numero uno di Pirelli, Marco Trocchetti Provera, ha sottolineato che questa intesa consente un'accelerazione sul mercato russo rispetto al progetto iniziale della società, con un impegno finanziario che rimarrà sostanzialmente in linea con quanto già previsto nel piano 2011-2015. Ultimo titolo, ST Microelectronics. Sì, allora ST ha chiuso in territorio positivo, ha guadagnato il 2,26% ed ha chiuso sui massimi da giugno, cioè a 7 euro. Secondo gli esperti la società beneficerà dal prossimo anno del trend favorevole nel comparto industriale automobilistico e una maggiore fiducia nella ripresa del wireless. Quindi le stime di utile per azione per i prossimi due anni, 2011-2012, sono state alzate, anche il fatturato è previsto in crescita. Ricordiamo che la scorsa settimana il presidente e amministratore delegato Carlo Bozzotti ha evidenziato come portafoglio ordini per il quarto trimestre di quest'anno sia molto forte. Allora, migliori peggiori, TAS più 15%, B-Team più 8,75%, la Lazio più 7,60%, i peggiori KSF meno 7,80%, poi titoli sottili Ratti meno 5,60%, Merida S.p.A. meno 5,23%. Livia Zancaner, buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Colle sulle 24 ore, ma cerca di essere allegra anche lunedì, martedì, mercoledì. Va bene, grazie, buon weekend anche a voi. No, non siamo impazziti, stiamo cercando un po' di calma perché vedo dei messaggi su questa cosa di Finmeccanica, che è un gruppo che abbiamo sempre seguito. Abbiamo avuto l'amministratore delegato di Ansaldo STS 20 minuti fa. È un gruppo bellissimo che vince le commesse, abbiamo fatto mezz'ora su questo, ma non si può dire che non si può indagare sui grandi gruppi perché sennò si fa male al paese. Questa è, da un punto di vista economico e giudiziario, una castroneria, fine. Ma la musica indiana non è per entrare in uno stato un po' più di nirvana, ma perché sta scricchiolando un modello da tutti indicato come un modello vincente, il microcredito, i piccoli prestiti ai contadini indiani, la Grameen Bank, il premio Nobel Yulnuz, premio Nobel 2006, sta scricchiolando e sta mettendo in difficoltà le banche, quelle vere, indiane stesse. E allora lo ha anticipato oggi il nuovo servizio dell'agenzia di stampa Radio Colle sulle 24 ore, che si chiama Lettere da Mumbai. Siamo in collegamento con New Delhi, dove c'è Andrea Oliviero, presidente. Siamo in collegamento con New Delhi, dove c'è il corrispondente, diciamo, per quello che riguarda la parte indiana dell'agenzia di stampa Radio Colle sulle 24 ore. E mi riferisco a Romeo Orlandi, presidente del Comitato Scientifico Osservatorio Asia. Buonasera, dottore. Buonasera a voi. E che da oggi cura il taccuino da Mumbai per l'agenzia di stampa Radio Colle sulle 24 ore, che cosa stia capitando alle banche indiane per via di quel fenomeno di grande successo che era stato il microcredito, ossia la possibilità di piccoli, piccolissimi prestiti che permettevano di uscire dalla povertà, permettevano a milioni di persone di uscire dalla povertà acquistando oggetti utili per il lavoro quotidiano. La Grameen Bank, che ha ormai sede in 57 paesi, ha diffuso prestiti per oltre 6 miliardi di dollari, di cui Orlandi a noi risultava che oltre il 95% è stato rimborsato. Su questo, tra l'altro, il fondatore Mohamed Yunus ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006. Invece è successo che in India la piega che ha preso il microcredito è diversa da quella nobile, romantica e anche efficace che ha preso in Bangladesh attraverso l'azione di Mohamed Yunus. È diventato un fenomeno economico e finanziario straordinario, che però si è applicato con tassi di usura che diventano sempre più difficili da riparare per i contadini. Il sistema bancario è preoccupato per un doppio rimbalzo. Il primo è quello che vede i contadini non ripagare le agenzie di intermediazione, le finanziarie che vanno a cercare i clienti nei 500.000 villaggi indiani. Il secondo rimbalzo è quello che e le istituzioni finanziarie stesse non pagate non riescono a ripagare le banche. Siccome il credito viene dalle banche centrali, dalle banche private, dagli investitori stranieri, cioè dalle istituzioni finanziarie grandi e non articolate sul territorio, allora la sofferenza è forte, insomma, si parla di sofferenza di circa 4 miliardi di dollari su circa 6,7 miliardi di dollari prestati. È un fenomeno nuovo e la novità deriva dal fatto che il governo indiano, soprattutto il governo dello Stato dell'Andhra Pradesh, ha deciso di supportare le richieste della popolazione dell'Andhra Pradesh perché, come tutti sanno, in India i poveri votano e votando determinano nuovi equilibri politici. È quindi interessante però questo meccanismo che se in Bangladesh ha funzionato bene, in India invece, come lei raccontava Orlandi, sta mettendo in difficoltà lo stesso meccanismo del credito. Noi adesso continuiamo a parlare di credito, ma credito in questo caso per il nostro sud, e quindi torniamo ai temi italiani. Grazie intanto al presidente del Comitato Scientifico Osservatorio Asia, Romeo Orlandi, in collegamento con noi da New Delhi. Grazie a voi. Due decreti compongono il piano per il Sud, piano nazionale per il Sud che il Consiglio dei Ministri ha varato oggi. Il primo indicherà i criteri per selezionare le opere infrastrutturali da realizzarsi nel Mezzogiorno, in pole position, gli assi ferroviari Napoli, Bari, Taranto e poi Salerno, Reggio Calabria e poi Catania, Palermo e di nuovo anche il ponte sullo Stretto. Il secondo decreto invece attribuisce al governo il potere di coordinare l'utilizzo dei fondi e il riordino del sistema degli incentivi alle imprese per evitare che vi siano i meccanismi di incentivi a pioggia e poi la fiscalità di vantaggio e gli incentivi per la crescita per le aziende che hanno sede nel nostro Mezzogiorno e poi l'annuncio della banca per il Sud. Il presidente del Consiglio Berlusconi al termine del Consiglio dei Ministri ha detto: attenzione, questo è un lungo lavoro che ha l'obiettivo di unire il Paese. Oggi abbiamo avuto questo Consiglio dei Ministri e dopo un lungo lavoro che ha preso buona parte dell'estate abbiamo definito il piano per il Sud, che è un piano importante che si sostanzia su delle cifre veramente rilevanti. Credo che per il Sud non si possa fare altro e credo che con questo piano per il Sud il governo faccia tutto ciò che si può fare, che è umanamente possibile fare per tenere insieme l'Italia. Da un lato il federalismo fiscale e dall'altro il piano per il Sud come controfaccia della medaglia. I fondi dunque a 100 miliardi di euro per i prossimi 5 anni, però anche qui con massimo rispetto non è chiaro dove arriveranno questi soldi. Probabilmente anche i fondi europei, i fondi FAS, quelli per lo sviluppo delle aree più depresse, di 100 miliardi ha parlato il ministro Fitto, non sono presenti nella legge finanziaria di quest'anno, vedremo se poi arriveranno e saranno integrati nelle prossime leggi finanziarie. Il ministro dell'economia Tremonti ha detto: il paese è già duale, noi non lo vogliamo diviso, e ascoltiamo questo passaggio nella conferenza stampa a Palazzo Chigi proprio di Giulio Tremonti. L'Italia è un paese duale, perché l'economia del centro-nord è diversa dall'economia del sud. Non vogliamo assolutamente, assolutamente non vogliamo che diventi un paese diviso. Vuol dire che le politiche da fare per il centro-nord sono di un tipo, per il sud sono di un altro e necessariamente molto più intenso tipo. Per l'economia, per gli interventi sull'economia, la logica di questo piano è la considerazione della questione meridionale come questione nazionale, non è la somma delle questioni regionali, è qualcosa in più, di diverso, di più importante. È la concentrazione di tutte le risorse e, per inciso, le risorse finanziarie sono di grande rilevanza e sono di crescente rilevanza, dato che i trasferimenti europei attesi nei prossimi anni sono in salita e non in discesa. La questione non è di quantità di capitali, ma di utilizzo dei capitali. Abbiamo verificato che non vengono utilizzati in alcuni casi, che vengono utilizzati in modo non appropriato in altri casi. Quindi concentrazione delle risorse su alcuni grandi obiettivi di opere pubbliche e di altri interventi. Infine, quanto più possibile, sostituzione degli attuali meccanismi di incentivo di trasferimento a pioggia con meccanismi di sostegno, di credito d'imposta fiscali. Questo è un po' uno dei punti di ritorno alla grande politica meridionale fatta dal dopoguerra in poi con la vera efficace fiscalità di vantaggio che c'era allora. Dobbiamo tornare a quello, altre forme di intervento finanziario sono state insufficienti. E poi il ministro Tremonti è intervenuto anche sulla banca per il sud, ne abbiamo già parlato altre volte. In sostanza Tremonti ha detto che la banca per il Mezzogiorno avrà il sostegno delle Confcooperative e della Lega delle Cooperative, confermando che la prossima settimana sarà formalizzato l'acquisto da parte delle Poste Italiane per conto delle banche di credito cooperativo delle banche popolari del medio credito centrale. La banca per il sud sarà infatti una banca di secondo livello, non una banca, diciamo, da sportelli come le banche tradizionali. E allora il 5 per 1000, volete sapere questi 100 miliardi da dove arriveranno? Ripeto, non è ancora indicato in maniera chiara, immagino che molti di questi saranno soldi dei FAS, dei fondi per lo sviluppo, e non ho capito se il ministro Fitto in questi 100 miliardi include anche l'effetto di agevolazioni fiscali, oltre che dei finanziamenti, di fiscalità di vantaggio. Però adesso, come ultimo tema, vorrei occuparmi del destino del 5 per 1000. Perché ricordate che la legge di stabilità, quella che la nuova finanziaria approvata alla Camera il 19 novembre, ha tagliato da 400 milioni a 100 milioni la copertura finanziaria dei fondi destinati al volontariato, cioè quello che il contribuente ha messo e destinato nel 5 per 1000 al volontariato, il 75% non andrà al volontariato, serve, da quello che abbiamo capito, per le coperture della manovra finanziaria. Molti messaggi al 349-238-6666. Allora, una precisazione: quando parliamo del terzo settore, del volontariato, stiamo parlando di un settore economico a tutti gli effetti. Sono 4 milioni le persone impiegate nel settore, anche se non tutte, diciamo, a tempo determinato. Quelli che vi lavorano come prima professione sono 1.100.000 italiani, il 10% lavoratori autonomi, 10% operai, e poi il 43% non sono occupati, operano soprattutto nella sanità, nell'assistenza sociale e nella ricreazione e cultura. Io non vorrei entrare nella polemica che ho visto sui giornali, ma come il 5 per 1000 viene tagliato mentre vengono dati i soldi alle scuole paritarie. È vero che il governo nella stessa manovra finanziaria ha riassegnato i soldi alle scuole private, alle scuole paritarie, nella misura di 250 milioni, cioè 100 milioni in più rispetto all'anno scorso. Ma non si può fare questo travaso così semplicistico nel bilancio dello Stato. È vero che comunque 250 milioni per le scuole paritarie sono stati trovati, mentre sono stati tagliati apparentemente 300 milioni su 400 del 5 per 1000, anche se il ministro Tremonti ha detto no, io voterò per reintegrare questi fondi. Andrea Oliviero, presidente delle ACLI e portavoce del forum del terzo settore, buonasera. Buonasera a voi. Lei ci sa dare qualche informazione in più, se poi in fase di votazione potrà, o sperate che possa essere reinserito gli altri 300 milioni mancanti, oppure non ci sperate nemmeno più? Ma la speranza naturalmente ancora in prima parte, cioè, perché sappiamo benissimo che il governo non è intenzionato a portare avanti emendamenti alla legge, e quindi crediamo che questa dichiarazione del ministro sia connessa soltanto ai futuri interventi che potranno esserci, in particolare sul mille proroghe di fine anno. Siamo per questo molto preoccupati e anche molto delusi, perché preoccupati perché dal 14 dicembre in avanti non sappiamo esattamente cosa avverrà nel nostro paese, nel governo, e in più delusi perché, come lei giustamente ha sottolineato, è l'arrivare ultimi tra tutti che ci spaventa. Noi non facciamo guerra dei poveri con altri, non vogliamo andare a discutere dove bisognava prendere, però certo rileviamo che ancora una volta la sussidiarietà, che viene tanto indicata come elemento chiave per la crescita del paese, poi risulta nei finanziamenti sempre all'ultimo posto. Allora, voi avete avuto anche la soppressione delle agevolazioni tariffarie e postali, ho ben capito? Noi abbiamo avuto quest'anno veramente una serie di colpi uno dopo l'altro. Il primo di aprile le agevolazioni delle postali le abbiamo perse, peraltro con aumenti per le tariffe del 400% per le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di terzo settore. Adesso ci ritroviamo con l'1,25 per mille invece del 5 per mille. Insomma, una cosa aggiunta all'altra effettivamente ha una sua poi efficacia, nel senso di metterci a KO, e credo che non sia utile, soprattutto in un momento come questo in cui il volontariato, il terzo settore sta lavorando veramente con grande determinazione per mantenere quella coesione sociale che qualunque crisi mette in crisi appunto, e che questa crisi soprattutto oggi sta dimostrando di far vacillare, ecco. Allora, sì, vedo già una battuta di un ascoltatore che diceva: beh, chiamiamolo 1 per 1000, se sono solo 100 milioni. Sì, di 1,25 è veramente molto, molto poco, è poco più di un'elemosina a questo punto. Ecco, ma che servizi rischia di mettere in discussione, visto che voi già, per quello che riguarda i fondi statali di carattere sociale, avete avuto dei tagli sia nelle politiche della famiglia che nei fondi per la non autosufficienza, quindi anziani disabili? Sì, in pratica sono tutte quelle opere che le organizzazioni di terzo settore hanno messo in campo in questi ultimi anni, forte di questo finanziamento ulteriore che arrivava. In particolare appunto nell'ambito sociale e socioassistenziale, dove operano la maggioranza delle organizzazioni di terzo settore, quindi molto nell'assistenza, assistenza domiciliare, tutti quei servizi ausiliari che però sono preziosissimi, lo sappiamo, per la vita buona delle persone, sia per gli anziani, sia per le famiglie, sia per l'integrazione degli stranieri. Sono tante, davvero tantissime iniziative che, lo voglio rimarcare, venivano finanziate in parte con il 5 per 1000, in parte con l'azione volontaria delle persone e con altre risorse che poi intorno all'idea progettuale si riuscivano a raccogliere all'interno delle comunità. Non dimentichiamoci che nel mondo del terzo settore le risorse economiche che riceviamo diventano volano per raccoglierne altre, perché poi laddove c'è una buona idea, ecco, la gente poi la sostiene. Ecco, io vorrei che fosse chiaro che noi non ci occupiamo di politiche sociali così perché abbiamo cambiato programma. Il settore del volontariato è un settore economico a tutti gli effetti, 1.100.000 occupati a tempo pieno, è un settore economico a tutti gli effetti. Sono d'accordo con lei, sia sul principio che nel momento di crisi forse tagliare i fondi a chi si occupa della coesione sociale non è il massimo, forse questi 300 milioni forse si potevano trovare in altro modo, qualche spesa in meno, qualche consulenza in meno, non lo so, qualche trasferimento alle regioni in meno, però e l'altra cosa, come diceva anche Oscar Giannino, insomma, lo Stato non può dirti che tu il 5 per 1000 lo versi per il volontariato e poi prendetene i tre quarti dopo, perché uno magari averlo saputo non lo versava. Questo è un principio proprio di liberalismo classico. Sì, io credo che peraltro appunto mette in crisi quello che è stato un principio, che peraltro dobbiamo riconoscere, è stato lo stesso ministro Tremonti a presentare, cioè quello di dare la possibilità ai cittadini di andare a indirizzare una parte delle proprie tasse. È peraltro un principio molto sano, perché consente anche un protagonismo fiscale della cittadinanza, che è anche un bel modo per iniziare a riformare appunto il fisco. Forse certo, se proseguissimo su questa strada, ma non su quella dei tagli, ma piuttosto quella di appunto dei finanziamenti più mirati, più specifici, potremmo andare anche a vedere un rapporto differente tra gli italiani e il fisco, cosa che invece sappiamo ad oggi non è. Sì, non è una bella cosa. Devo dire che il ministro Tremonti, che l'ha difeso, ha detto: io ero a favore, perché era un'idea di Tremonti, 5 per 1000, gli va riconosciuto. Poi sto eroso da diverse scelte parlamentari, per esempio la scelta di incrementare i fondi per l'editoria, e quindi colpa anche nostra, per le televisioni private e per altre varie causali. Andrea Oliviero, in bocca al lupo a lei e a tutti le centinaia di società e di onlus che lavorano nel terzo settore. Grazie, speriamo davvero che ci sia un cambiamento di linea. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.